insieme. Senza a dirti sempre di sì. Sei stata, lo sei, sempre lo sarai. La donna che ho voluto e che vorrai. Succederà più che torno a letra e tu ti addormenti senza me. Succederà più, d'amore te ne ho dato tanto. Non succederà più guardarmi intorno, se è notte, se è giorno. Non succederà più e poi non parliamone più.